intimoriva quella cosa lì, già nell'accenderla a cazzo, mamma mia. E niente, insomma, ho lasciato perdere, che era meglio. Ah, Antonio si è fuggito. Sì, ho lasciato un attimo l'impianto, preso, vorrebbe invece lui. No, già, io no. Ma sono agricoltore, in campagna faccio quelle cose che so fare, ma non mi dia mai di trattare macchinari, nulla, no, ho troppo paura. A me è morto un carissimo amico in campagna a Bancali anni e anni fa, proprio col trattore, col trattorino, quello piccolo, stava girando la terra e ha preso una pietra, gli si è ribaltato, l'ha ficciato, come mettono un cane, capito? Quindi gli ho detto no. Roba tosta, basta un battito di ciglia, non è consentito distrarsi. Non se ne è accorto, la pietra era nella terra, non ha passato il trattore, non tanto grande, medio, mi si è sollevata la ruota e si è piegato, non ce l'ha fatta saltare, l'ha ficciato anche un cane, ha detto boh, lascia perdere, ma il coso per me no. Nel trattore, nel trattorino, capito? Va bene, la zappettina e boh. Vai già, io vado a cenare, ok, sono già 9:05 quasi, che sono 9:05 quasi, quindi 53, che è già pronto. Se voi fate due chiacchiere, io e Antonio la sera dopo cena siamo sempre qua, dai. Un'altra oretta ce la facciamo. Ciao Antonio, ciao Gianni, Massimiliano è già andato via, l'ho già salutato, e a tutti quelli che sono in ascolto su 10, dai, per me momentaneamente QRT, ci sentiamo dopo. Sono ritornato. Ehi Antonio, a dopo, ci sentiamo dopo, dai, ciao. C'è. Ehi, ciao Cla, buona carica, e anche io, dai. Anche io stacco. Casomai provo a accendere più tardi, ma non do garanzie, dai. Ok, dai, buona carica. Buon proseguimento, dai, anche a te, ciao Antu. Ci sentiamo un altro momento, ok? Ciao ciao. Ehi, ciao, ci sentiamo, ok. Quattro fatto con la pedifera o senza? No, con la pedifera. Aspetta, sto massaggiando. Ma c'è vendi tu? Ancora aggiustando il computer? No, è mettato a reagire, sto facendo. Ah, ma quel computer che ti ho detto io non te ne hanno chiesto? Nessuno te ne ha chiesto. No, Cla, no. È importante, li vogliono. Che palle che... Sì. Eh beh, per i ve. Io qua sopra, mi sto mettendo, io ho già fatto l'ho collegato l'interruttore, adesso devo metterli così dietro, qui gli attacchi, dai, non c'è nero. Ah, li stai mettendo anche l'interruttore? E lui ce l'ha piazzato. Sì, e beh. Gappa. Già ha portato a 13,8. Ma praticamente le stai mettendo l'interruttore come c'hai tu e basta. No, questo qua non è luminoso però, il mio è luminoso, c'ha la lucetta là. La tirata è quella al mio, e ci manca il tattico per la ventola, se la vuole... Ma lui c'ha la diretta. Ma si può anche fare, ma ci mette un tattino e si può bloccare, capito? Ia, ia, va bene, va bene. Ti andavo in uscita, dai. Fallo bene con l'alimentatore, così a posto. Io sento gente qua sotto, Luke, forse è Ozieri che sta parlando, dovrebbe essere Ozieri che sta parlando, non so, vabbè, sento gente che parla. Ma io no, c'ho lo squelch. No, ma non ti arrivo a dire a te, mamma così. E va Santiago 4 qua, e Lima 1 da Ozieri con Giovanni di Ozieri. Si attacca l'amplificatore, vedi che ci porta giù. Vabbè, Lima 1... un minuto di bianco Giovanni, subito riprende. Vabbè, comunque, sto guardando sempre la partita. Così, 4-1. 4-1. Quanto gol ha fatto sto ragazzino? Quella cosa ha fatto, zicche zacche. Con chi è il Napoli? Contro lo Spezia. Oh, yeah. Senti, oggi c'è Lima 1 dei Galli, sta parlando con il suo paesano lì, non intende, e con un colpo lineare vedi ci intende. Poi un colpo di berivella. Sì, già va bene così, 4 watt, sto usando il Midland. Tanti a me mi dà che di sireno, tranquillo, con i miei barracchini, e non mi rompiti le palle, se no, a voi divento idrofobo, eh. Già da livello ho bisogno, già da livello, la tecchia mi applica correnti, ma cosa? Non è prego correnti, io ho 24 voci il mio. Vabbè, comunque, la tecchia mi ha portato un esibito, ma cosa va? Vabbè, non l'hai mai visto il mio lineare? No, quello grande sì. Quello l'ho stato solido, quello transistorizzato. Il coso c'ho io, l'LA1000. L'LA1000. RM Italy, LA1000. Capito? Una ventola c'è. È grande, più grande di una radio. Bello. Però c'ho anche l'alimentatore a 24 volts. Oggi Gigi me ne ha fatto un altro a 24 volts. Piccolo, da 10 ampere per alimentare sommergibile, e poi ne ho dato due io, uno da 50, uno da 40, me li ha accoppiati e me ne ha fatto uno praticamente da quasi 50 ampere, 45 ampere per alimentare l'amplificatore a 24, quindi ho anche gli alimentatori a 24 volts adesso. Quindi di Vulcano? Cappa di Rogero. Fascettati uno sopra l'altro, tutti e due uguali. Adesso devo andare all'elico, se ce la faccio domani mattina o sabato, no, sabato è chiuso, cazzo, vaffanculo. Vabbè, lunedì ci va. E prendo la scatola, capite? La scatola li metto dentro, ho già preso i connettori, rosso e nero per 12, rosso e nero per 24. L'interruttore che si illumina senza strumento, senza niente. Intanto sono tarati, quindi non c'è problema. ed escono due bei alimentatori a 24 volt. E non vanno bene, ho voglia. E io credo che vanno bene, alla grande. No, mi servono lui perché il sommergibile, il Craftsman è a 24 volt, c'è capito? Lo sto alimentando con l'alimentatore a 24 dell'amplificatore. Assorbe pochi ampere, però mi ruba sempre qualcosa. Il lineare deve andare da solo. Con l'alimentatore suo da solo. Quindi l'altro a 24 lo metto per il sommergibile, l'altro lo tengo di scorta. Alla guglia, alla grande. Faccio 250 ampere sugli alimentatori che ho, anzi ho 300 ampere, fatti vale. Dai da regalarlo, prendimene 5 ampere a me. Ehi, c'è un problema, non gliene fare. Ho preso due, ho ordinato due di quegli alimentatori, come c'è tu, non di quelli comprati qua però, nei cinesi. Da fuori ho ordinato 25 euro, uno da 50 e uno da 40, 90 ampere. Gigi me li ha trasformati a 24 volt. Ne abbiamo tirato fuori 40 ampere, 45 ampere, una cosa del genere. A 24 volt, alla grande. Sì, io ho preso un negozio, adesso va fuori, mica ho preso quelli da cinesi. Il negozio. E anch'io, ti sei accorto la differenza che c'è? L'ho fatto avere a Massimiliano. È molto più robusto, più grande. Poi anziché avere la ventola sopra, ecco perché ce l'ha dietro, che è molto importante, capito? Si conferma, è vero. Io questa differenza ho trovato lui, ho fatto vedere Massimiliano, ma è da che ti diriginisci, la mirino fine fine, la ventola attaccata sopra, che non serve a niente, capito? Invece quello lì, quello che ho io, quello che c'è tu, il mio è da 50 ampere, bellissimo, funzionante, la razzelliera è molto più grossa, i fili sono più grossi, è fatto meglio, e poi la ventola ce l'ha dietro, non sopra, capito? Quindi li puoi accoppiare uno sopra l'altro, se tu li accoppi che c'è la ventola sopra, non va bene, devi spostarla da lì. Invece chi ci verranno tutti e due ad Arezzo e so appunto. Ma la mia ce l'ha sopra lo stesso. Quale? La tua ce l'ha sopra, no? Dietro. Sopra, sopra. No, no, il mio ce l'ha dietro. Ce l'ha nel coperchietto di dietro la ventola, come gli alimentatori normali. No, gli alimentatori normali non mica ce l'hanno sopra. Switching, anche il Proxel, il Diamond ce l'hanno dietro, non ce l'hanno sopra, come fai a averla sopra? E la gioca bene, era. Sì, perché li puoi accoppiare, se no li puoi mettere uno sopra l'altro, con la ventola così, capito? Per quello li ho presi così, con la ventola dietro. Mi fate i buchi. Oh, allora con un'imbarriata di mano, cazzo di gitta. Barriata per ci mette lì, cazzo. Ma è telecottero. Attenzione, Ottiri da Sassari. Hai finito di parlare? Se stai sempre parlando? Attenzione, Ottiri da Sassari. Hai finito Lima? Attento Lima 1, spalliero chiama, cambio. Come intende, no? Parlando Giovanni, il paesano, se non muove la portante non intende, no, non intende, non intende, no, non intende, no, Giovanni, non intende, no, pronto, pronto, pronto, pronto, tutte le notti sono qua nel canale 10, tutto duo, giù, Mimì, Gogò, e invece chiudono lo squelci, cazzo, sicuramente, esci il tacco, esci. Quando attacca non arriva manca la 3 da te, così è, sì. Qua no, lo so che non è tanto bene questo dello switcher. Non arriva nessuno forte, più forte di quel tanto. Manco Gianni che è più vicino. Ah, è vero che quello Smith c'ha problemi. Già se rimane così. Sì, rimane così. Ho già arrivati. No, questo è perfetto, Questo 574, 578, 78, 5, 7, sono così semplicissimo. Funziona bene, 4 watt, alla grande, alla grande. Troppo di vela. Sì, troppo di vela, tutto la sua canzone. Ho preso caffè con Califano l'altro giorno, era la Fusaro, siamo andati al Trice, abbiamo preso caffè, due chiacchiere ci abbiamo fatto. Uia, uia. Uia, uia. Io ho visto, vabbè, andate per la sua, ma dagli una mano, prestavo la tenda, con la famosa tenda. Che beghe, beh. e niente, adesso c'è un casino lì, gatto, un casino, capito? Non fa, perché ma tengo tutti i piazzoni. Sono portato al tecnico. Allora, la tecnica non c'è quello come era bello anche con quelli, l'ho visti quegli strumentini piccoli piccoli. E quali? Quegli strumentini a due scale, volumetro e amperometro, tanto sono bellini piccoli, mi sono un po' più piccoli di come lo Smitherson di un baracchino da mettere lì in quelli lì. Ah, hai capito, e hanno provato a seduci. Sì, già va bene, non c'è problema. Adesso devi fare il suo dovere. Sì, ma infatti, quando faccio dovere, ve ne fai i buchi. Beh, ci stanno bimbo da tagliati fra qua. Fai bene, fai bene, subito, io sono qua, sono qua. Sono in campionato di Serie A, lo sai, Koulibaly. Koulibaly? Sì, è amico di Kulusevski. C'è Kulusevski e Koulibaly. Sempre di Gurusidrat. Sempre. Allora. Andiamo muovere allora. E tu sai che no? No, guardare su, su internet, vabbè, quando è in Coppa Italia, adesso glielo chiediamo, vabbè. Quando è in Coppa Italia, io metto su internet. A San Siro giocano il 2 di febbraio, martedì 2 febbraio alle 20:30, martedì, semifinale d'andata Coppa Italia tra Inter e Juventus, quindi si gioca a San Siro la prima, poi il ritorno dovrebbe essere bianconeri neanche un mese dopo. San Siro, martedì 2 febbraio alle ore 20:45, nerazzurri contro bianconeri. Già va bene. Andiamo a correre Pirani, se no è un casino, tra Coppa Italia, vabbè, la Juve ha fatto Coppa e Coppa, il campionato, c'è anche la Champions, la Coppa Italia, l'Inter non è in Champions, è stata eliminata, Coppa del... la Supercoppa non c'era, perché la finale era Juventus Napoli, ha vinto la Juve, e adesso solo campionato e Coppa Italia sta facendo. E vabbè, sempre Juga di Vinibaro. Parli di una che piglia ne devi Juga, la mazza ne devi varia. Beh, claro. Vedete non ribigliosi, no? Non ribiglio nemmeno, la metà. Cosa hai detto, Berifè? La battita è finita, no? Non ripiglio nemmeno quello, la metà. Vabbè, certo che sì, purtroppo così. Potete bombolino, vabbè. Cosa vuoi bombolino? Andiamo a bombolino. Ma, non è successo, no? È successo. No, non smette a sale di meno. Un casinato su Smith, sempre 9:30, sì. No, ma detto non c'è niente, che se non c'è un bel... No, il segnale è stabile, sempre così. Sì, sul più del 30. Ma si è ripreso. Tu gioco in Zen, se fosse stato un falso contatto dell'antenna sarebbe calato il segnale, invece il segnale è sempre uguale. Già, ti come un capolavoro, manco lui me l'ha firmato così. Ehi, andate di buono e già non sei così capo di bugnetta. Per vantarmi già mi arrangio, dai. E' brutto con i fili fuori, cazzo, ma fa carità. Cosa hai detto? Cazzo, ma prendi andare male che tu rimano la tiri. Ogni sera sono qua al canale 10, cazzo. Non mi ricordo che ti ho detto. Ma lì sei risolto, cazzo, secondo me va proprio di mi disorienta, perché c'è gente che sta parlando, so, arriva a Santiago 5 qua, quindi c'è anche una bella radio, e quindi quando parli tu mi ascoltando lui poi mi disoriento, capito? Cosa hai detto? Veramente, rincoglionito. Ci faccio la pedirva le facciata. Ehi, figura di Dio. Ho provato a mettere in moto la moto, oggi non è partita, domani c'è fa bella giornata, gli affianco la macchina, gli attacco il cavo e la metto in moto. Ma però quella moto non è a pedirva, la vero? No, già ce l'ha, ma tanto non parte lo stesso. Attacco i capi domani mattina, guarda, ci sono nel cofano, guarda, ce n'è a casa, devo mettere nel cofano per forza. La metto in moto, perché se domani è bella giornata voglio uscire in moto, non c'è scusa in macchina, do una lavata, cabina di Zari, di sciocchezza, sciovetto che ha fatto, beh. E beh, anda come sta, a posto? Ah, da posto è finito, di sta zuppa, che ti pare, ciancata. Casino, ragazzi, che rizzo. Rogalidate. Non fare niente. Ahia, ahia, mi quanto quanto bulloni non mi manca, l'hai fatto. Dio, leggermente nervoso, che ha messo domani mattina, c'è l'appuntamento alle 11:30 al policlinico per fare visita all'occhio, capito? Perché dobbiamo fare l'aggravamento, un casino qua, sto piede, l'occhio, vanno per 80 anni, cazzo. Adesso da un po' non la vedo, Anna, un po' un qualche anno. E beh, qua c'è più venuto, poi lì non sta più scendendo. È un anno che non esce di casa. E vabbè, da tempo al tempo. Piano piano, già lo dico, piano piano. Io gli ho detto avere pazienza, speriamo bene. Che andare il tiro ci è fuori, ma andava male, se no ti vedi un seggiolino. Ah, vedrai che già guarisce. Ma che mamma tanta sciancata, vabbè, va. È colpa sua che ha ingrassato di nuovo, un casino. E la chiama deve dimagrire qualche chilo. Io sono a dieta Ferrer. Se non fai quello che devi fare, lei mangia, tu sta sempre sturpicchiando, non si fate mai mancare i dotti, capito? E quindi io dolci poco, mangio molta verdura, bevo molta acqua, adesso sto andando a piedi io da qua, da casa, fino alla piazzetta dove c'è la banca, insomma ti vado in banca, che devo preparare i soldi e quindi vado a piedi, vado e torno, sono sempre quei 2 chilometri andare, 2 chilometri a tornare, capito? E da noi esci, sempre bugiato ero di vana, di prendere un voscio. Mamma si è cuccata. Vabbè, ma c'è Caterina, non c'ha l'età di Anna, Anna non va mai più a 60 anni, cazzo tua madre quante ne ha, 70? Ma ne ha 74. Ecco, sono tanti in più, poi ha avuto i problemi che ha avuto, capito? Quindi non è che uno butti luci, c'ha la sua età e ha avuto anche problemi di salute, quindi è da un kit operazione, boh, cucata a capo a terra. La coralita, cosa vuoi fare? Fate sempre 25 con l'aria, muoviti, esci, muoviti, come stai c'è cantò? Muoviti, è la Madonna, gente, viva, attenta. Allora, questa canzone, dico che non devo grande fratello, questo ma come anni mi, sul raggeggi forte, sei bagata. E là, te ne accorto, là, già si, te lo si gluditi in bocca. E si già, là, un attimo che proprio questo coso, là, vediamo un po'. O mi brucio un baracchino o brucio la piglia poco questo che sta diventato. Prova, già sono qua ancora. La misura giusta, cazzo sbagliamo di un cc, cazzo lo butti, tu va, un mostro sono qua, giusta. Tanto beh, tanto lui serve per lineare a voglia, no? E qui si stava qui dentro così, bene, abbassati, si salto bene lì, sì, posto, sì. Ci andava, eh? Già va bene, come dicono all'alieno, già va bene. Cosa gli hai messo? La ventola esterna? Cioè l'interruttore esterno, così? sono le cioè quelle grigliette, no? Ti ha tagliato due. E gli hai messo il interruttore. Torra, cazzo, la passone, ce l'ha fatto Edu. E tu cosa hai fatto? Ci posso sapere? Cazzo, io gli ho passato il filo dentro, direttamente dentro, no, dal frontale. Capito, dalla mossettiera, da dentro, un buco, ho passato il filo e gli ho collegato solo il filo, gli ho saldato a per interrompere l'interruttore, basta. E poi fini dentro con i buchettoni rosso e nero. Ah, hai messo il maniglione, ho capito. Quindi adesso lo puoi attaccare gli spinottini esternamente con i connettori. Vabbè, prima c'era il filo volante dalla razzelliera. Non l'ho mai usato, non l'ho mai messo in moto. E poi l'ho regolato a 13,8. Boh, come il mio praticamente. Praticamente è uguale al mio, là. Ci manca tantino per come si dice? Ma stai andando là? Scusa. Se stava alzando. Cosa stavo dicendo? Cazzo, solo per bloccare la ventola, solo quello ci manca, una cazzata lì su, va. Questi copiati dove ha fatto. E deve stare a posto. Qua ti devo detto già domani mattina te lo do. Allora brucca, aspetta, là. Sto dare uscito. Un po' pezzato isolante, già da pure. Provalo. Per non chiudere, dammi 5 minuti, 2 minuti, il tempo di mettere le viti e ho finito. E sono qua, te giù, tu non ci vuole sei. Come aveva portato il televisore a mamma, l'hai scelto da sudato, il cambio elettrico, il cambio. È ancora buono, finché va. E aspetta, là ci sei. E via. E aspetta un attimo, non mi chiude il tappo perché tocca poco a poco, cazzarola. Prova. Vabbè, cazzo, devi chiudere, vai, tranquillo, non ti preoccupare. Lasciamo qua trovare la televisione, cazzo, chiudi. Sono dei serviti, per andare a luna. Ah, va bene. Perché, se no un casino, cazzo, un casino. Guarda un po', cucla, 1, 2, 3, prova, guarda un po'. Sentirai la ventola sicuramente, come? Là c'è la portante. Sento la ventola, ma non fa niente. Tuo segnale, 9 più 30, la 10. Che da, sono felice già. Vabbè, quando l'angolo già funziona, ma è sempre felice. Pegata col mio, io sto usando quello che mi ha dato tu, quello... Quella cosa, questo che pesa 2 ticchini. Ah, e funziona ancora? L'avevo riparato, claro, riparato. L'avevo regolato a posto, 13,5, 8. Ah, già va bene. Adesso sto quello che mi aveva tutto. Ah, va bene. Di Lucio. No, ho capito poco fa perché ha fatto quel problema. Boh. Poi ci ho abbassato un po' la tensione. Che ti ho mandato di foto. È già da lì, ma vabbè. No, ho usato un mito. E poi non la 2.20 ho messo un bel capo grosso, là. Ma grosso, però. Vabbè, i capi vogliono grossi quando li metti a 2.20, anche se c'è poco assorbimento, rischi di meno, capito? Vabbè, comunque. Ma qui io ho quel capo grosso così. Poi ho questo abitatore. Ecco fatto. Fatto c'è questo abitatore, che è un bijou, è un bijou. Qua ci manca quello. Poi c'è una potenza fenomenale. E cosa? L'abitatore, la macchina. Questi sono buoni. Questo che pedivella. Ma che? Cos'è consigliabile? 13,8 o 13,5? No, hai 16 che consigliabile, 13,9. Sicuro sì? Sì, i miei sono a 13,9. Capito? Perché assorbo un bel. Quindi metto a 13,9, non vale un raio. L'ho messo a 13,9. Dimmi, Luca, cosa hai detto? Ho detto che l'ho messo a 13,9. Ah, vabbè, vai tranquillo, non fa niente. I miei sono tutti a 13,9, anche Gigi l'ha messo a 13,9. C'ho come entro la memoria del televisore e c'ho qua. Lo fai capire io. Perché mi salta il canale, mi ha saltato primo, secondo e terzo. faccio, ti ho detto, non te l'ho detto. No, tu hai detto l'HDMI, cosa cazzo ho detto l'HDMI? Claro, se ti saltano HDMI. HDMI. In Italia. E allora? Prova a farla in Germania a vedere. Oh, provo, vedi. Ma sì, Germania ha più forti già di noi. A me va la fazenda la matessa. E qua di manco ne fendi. Va bene. Devo vendere mucca, cadio. Chi? Certo, perché Germania di più prende? No, allora, se ti fa la scansione, non ti rimetti in coso, quindi se questa, vuol dire il televisore che è poco bussi. Faccio una giù di nomi, mi metto uno, due, tre in fila. Invece Rai 1, Rai 2, Rai 3, ma 1, 2, 3 in fila. Italia canale 5, Rete 4, canale 5, Italia 1 no. Ce li ho quelli 78, 79, 80. Poi funziona bene. Felix mi fa. Gappa gappa, ancora peggio, per un Portogallo, vedi. Ho capito, gra. Ancora peggio, adesso provo Portogallo. No, provo a Spagna. Ma si è vedi. No, è buona la televisione, devo avere qualche problema il coso. Se la toccava, se non si è attaccato il connettore. Non ho messo questa base di nuovo, ho messo come era prima, sicuramente ho tirato il connettore. Si vedono i canali prima. Eia. Il connettore davanti è staccato dal televisore. Sicuramente tirando il cavo. Minchioni, cazzo. Vabbè, porta la mano, sai che io lo rimedio. No, il cavo della televisione, il cavo, il connettore che va attaccato alla televisione. Di Gipino. A me mi ci grida già villa, che non vedo proprio nulla, ci sta vicino, però niente, nulla di niente proprio, manco lo smetti però. Meno io, Cla, nemmeno io. C'ho sempre gli occhiali, tanto ecco perché sicuramente non andranno bene questi occhiali qua per me. Ci vorranno quelli progressivi, sicuramente. Adesso mi informo, boh. Perché questi qua, tenendoli troppo, cosa succede? Che fa una mal di testa. L'ho notato, spesso se volete che sono sempre mal di testa. Mi tocca prendere una bustina per farmelo passare. Anche a me la stessa cosa. Ma stai già segnando quasi tutti, vediamo. Entra Gianni, che tu metti un attimo, come dici? Guarda che tu dici, direttivo è Claudio. Ma aspetta, scusa. Sente il beep? Non si sente il beep. Ma lo sento anch'io la colonnina, poco lo sento. Ma adesso si sente, questo qua non è a beep. Questo è il 574 della media, non è a beep. Ma niente. Sto giù mica, mi sono mangiato la marina, cibo sì, bastoncini, li ho fatti in forno, con un po' di ketchup, una mela e un arancio, metà arancio. Ehi, ehi, no, io ho mangiato cinghiale nella roccia stanotte, un po' di insalata. E basta. Gianni, ci sei? Ma c'è state questi lumi? Beh, è rata pignata. Ma so che mi sistemo le tue. Cazzo. Dai, già, comunque ho fatto un capolavoro, meglio del mio te l'ho fatto, Sì, io vabbè. Pensate che funziona, l'ho provato con un cloud, ma che è a posto. E la pentola, non è rumorosa, si sente. Si sente purtroppo. Sente un bene, no? No, lei sente un bene, però sarà più silenzioso, sarà meglio. Ma già va bene, la frega. Sì, ma tanto ce lo devo sbattere sotto, non si deve vedere. Oh, la polvere, Polvere? Sono amico. Sono di sotto, rischi che entra la polvere. Ma io è chiuso. Il mobile è chiuso, Luca. Non entra di polvere. Ma meno che lo appendi a testa in giù. O di fianco. Va bene, ok. Una marina ce l'ho così buttato sopra. Cioè, ce l'ha visto Claudio. Tu lì sopra il coso, il covo? No, io lo metto nell'ultimo scomparto che ho, dove metto le carte, tutti i documenti, gli apparati, eccetera. Mi metto lì giù, le cuffie, lo metto lì in un angolino. E certo c'ha i buchi per far passare i fili. Questi sono quelli di wafer buoni, quelli che prendono uno spin, alla nocciola. Claudio. Oh, via, sono preso un questo televisore. No, non lo dire, ma così tu capi, che se non vai alla massa te ne vai. Cosa c'è per? No, riesco a memorizzare, manca un sacco di cani. Se non te lo dà, prova a fare 500, 501, 502, 503, se te lo dà, se ti dà la RAI, prova a vedere. Non mi duri già, qual era la TV? No, non era per me, però com'è era al telefono tutta la sera in videochiamata. Tutta la sera addirittura? Sì, dalle 10:30. Ah, la tua compagna? Sì. Il tuo telefono, se non lo sbaglio, se non ero quello vecchio, quello che è rotto, la batteria tu lo caricavi, giusto, no? Si caricava al 100%, poi lo staccavi, dopo un po' si caricava subito, vero? Allora, praticamente non caricava più ultimamente, il telefono non accendeva, non caricava la batteria, telefono si è spento e non riaccendeva più. Poi sono andato a caricare la batteria, non caricava, alla fine mi sono rotto le balle e mi faceva un pazzo. No, prima di succedere quello, prima che c'era il problema della batteria, ti ricordavo io e poi te l'avevo sostituita e andava bene, no? Giusto. Sì, non durava niente, Edu, non durava niente, mi avevi detto anche che era gonfia e poi la per esplodere. Non durava nulla, durava la sera Santo Stefano, non è manco nulla. Ho capito. E adesso devo cambiarne una del fattore di Marina, che arriva al 100%, tu lo stacchi, poi c'è il 92, e poi di botta 50 e poi si spegne. Come sta la partenza, ma lui? Che ho pagato, che ha preso oggi. Io sono 9574 della Milan, Midland MB+5. Va bene, tu ce la stai usando già. Io ho l'Intec, sta base Intec. Quello con le luci blu? Sì. Piace bene, piace molto molto bene con la radio. Quel Baraccos, piace molto bene. No, io ho solo 3009 qua, è il mobico, va bene, sono dentro l'armadio. Il mobico, ah no vabbè, c'ho anche uno modificato, niente, vabbè, quello si userà in propaganda, si viaggia ancora, no, tra mille luci. Avanti Claudio. Sì, parlate, sto memorizzando questo televisore, se ci riesco mi ha rotto le balle, ecco a terra. Quello di trova qua. Senti quell'automatico che te lo fa da solo, te ne memorizza da solo. Non so, non ho messo quello. Non ho messo quello lì. Non è in automatico. Ma non gli ho preso, che non piglia che. Non è male. E cosa vuoi che ti dica? Cos'è che non prende? Cosa? Che cosa non prende? Cosa non prende? La RAI, queste cose così. Intanto anche a me l'altro giorno lo prendeva TDG eccetera eccetera, poi si è ripristinato. Gappa. Uia. Andiamo chi? Allora domani cosa devo fare? Ma qua mi ha già giocato stasera già. Metto così me ne devo poco da metà di mesi. Perché non posso stare a televisore la mamma domani. Devo cambiare i led, cosa devo fare? L'ho fatta, poi non me lo ricordo. Vabbè. Ecco, adesso mi ha acceso anche il garage, così lo vedo acceso, che almeno questo. Ma hai provato altri microfoni già? Lo fa lo stesso? Sì. Ma già può essere. Si è sottoalimentato. Mi ha calato un po' la tensione. Non puoi provare a con l'alimentatore esterno. No, non è roba di alimentazione, no. È roba di modulatore. Sicuramente va cambiato il modulatore. Però c'è tanti anni, non già. Ma è nuovo, non c'è un grafico. Nuovo. È il mio stesso. Nuovo di pacca. Bella radio. C'è una ricezione favolosa. E anche questo è bello, questo esce molto molto bene, come ha detto Gianni Capri. Questo è il Midland 574, 40 canali, con USB, LCB AM, bello, nuovo, anche questo, nuovo. Io dammi quello, lo metto al posto del garage, me lo vendo. Ui, non tocca se... No, non lo vendo io già, tu me li ho comprati, non me li vendo. Tu immaginate che c'ho un lineare, che mi ha fatto stamattina, della Meritron, degli anni 70, monovalvola, nuovo, anni 70, non so se li avete mai visti i lineari degli anni 70, è nuovo di pacca, nuovo, e l'ho messo sopra il deck, e funziona pure, non so. Devo mettere solo il capo di alimentazione, ma 2 mesi, perché è vecchio. Domani lo compro e glielo metto nuovo. C'è lo strumento nuovo. spirito. Faceva grandi cose, no, vedi? Molto bello. È grigio, tipo Kenwood, carino, cromato, tutto bello, nuovo. I interruttori sono rotondi, cazzo lui. Gli interruttori rotondi, quelli che si giravano dalla parte all'altra. Cazzo, è curioso. Vabbè, vabbè, sempre bisogna di mondezza, però roba funzionante. No, io non guido un attimo, io giù mi faccio il 3009. Adesso vediamo, mi stavo pensando di prendermi un altro 50 ampere di questi switching. Però me lo metto qua lo stesso, al posto di questo che mi ha tutto. Cioè, sì, funziona, funziona benissimo. Solo che ho mal ragione, cazzo, speciamo un bel. Non io a mezzo alle base, io ho un mobile attaccato al muro sotto le basi, tu manco le vedi, alimentatori, ci sono i cavi lunghi e alimentano un par di palle, alimentano il 430 e il 140, le altre sono tutte 220, solo questo è a 12 volts, il Midland, questo è a 12 volts. Sono tutti a 2,20. Oh, iai. E adesso andiamo un po' con questo, se no facciamo riposare un po' il Saturn, ecco, almeno non si rompe. Magari si rompe. Cosa? Ho detto, magari se lo lasci fermo si rompe davvero. No, è sempre acceso, anche adesso è acceso. Ma c'è l'antenna, l'antenna è commutata su questo. Acceso il 70 e non entra, se lo metto nel canale 10 invece fischia. Quando i commutatori sono buoni così deve essere, quando commuti non deve entrare l'antenna, se entra l'antenna il commutatore non ci viene nulla. Ciao Lima 1, ciao, buonanotte Lima 1, tutta la sera sta parlando qua nel 10 o sì. Attento Lima 1, non mi intende se. E chi era? Allora già mi senti, sì, ti ho detto tutta la sera sì, parlando sotto. Ti ho chiamato anche poco fa, vabbè che sono con 4 watt io, ma già mi senti lo stesso. Pozzieri, già. Eia, KK, no, io sono col baracchino piccolo, 4 watt, già non ti stavo disturbando. Ti sentivo a te parlare con Giovanni, Giovanni non arriva qua, ma infatti stavo parlando con Luca, gli ho detto c'è Ottieri sotto, ma già non disturba, non è un problema. Non ti preoccupare, salutami a Giovanni. Chi c'è da Ottieri? Lima 1. Parlando? Sì. Eia. No, tu stai arrivando, Santiago 5, modulati 6 qua. Io però ti ripeto, se sono più basso del solito è perché sto usando il baracchino con 4 watt, senza nessun aiutino, niente. Un vecchio Midland 574, base, di quelli vintage, insomma, dai. Sono un po' collezionista in questo periodo, prima uno, capito? Sono in compagnia di Gianni Doppio Roma, non so se lo senti, è Luca. Vediamo un po' se ti sente Gianni, vai per il Lima 1 di Ottieri. Oggi attacca lì. No, io non lo sento Ottieri. Ottieri, mi ascolti? Ha detto manco ci muove l'ago. E va manco qua, per lui. Niente. Aspetta già. Italianaro Lima 1, come ti arrivo? Hai visto? Quando c'è la radio buona, anche se arriva 1-2, però 3 watt e mezzo, 4 watt, capito? Quando invece mi ascolti col segnale alto sono con la radio grande. Questo è un baracchinetto. No, non arrivi dagli altri colleghi qua di Sassari e Lima 1. Niente. Ho provato già nel più rumore ma non ti sente. Vabbè, io sono più aperto, già lo so dove sono, quindi non c'è problema. Luca, neanche tu lo senti a Lima 1? No, nel Lima 1, nel Lima 2 e nel Lima Delta. Gappa, non ti sentono, come io non sento Giovanni, io non so Trizza, era un po' che non lo sento, un periodo arrivava quando c'era Nino lì, capito? Quando c'era Nino già ogni tanto lo sentivo a Giovanni, adesso non arriva più a nessuna parte. Anda bene Mera. Ma Nino, vuole guardare l'ambulanza? Nino. Ambulanza, oggi è? Io saluto. E ci se ne andiamo. K, Lima 1. Allora, Sassari, mi saluta Lima 1, Rottieri. Non mi intende se manco a imparare già rola. Ok, dai. Ciao Lima 1, un abbraccio, cordialità, saluti. A Giovanni abbiamo salutato. E anche noi facciamo un altro paio di passaggi, già a mezzanotte 10. E poi me ne vado a Nanna. Ammetto più rum. Ciao, devo veramente Lima 1, alle prossime. Ciao Lima 1, ciao, buonasera, buonanotte, dai. Notte, dai. Ci sentiamo. Ah, Giovanni, su quel culo Lima Negra. Ehi, è la drippa. No, ma per me è importante, capito, con 4 watt le varotti. Di solito mi sente abbastanza alto, ma sì, basso di segnale, ma la radio è sempre 5, lo so, la radio è radio. A volte si può arrivare anche a 0, ma è importante arrivare bene di radio. Cambio passo, compro e vendo. Vero. Ma anche il segnale già conta, se c'è forte di segnale, c'è una radio anche più forte a volte. Già, cosa hai detto di mamma? Ah, sto parlando con Giovanni, No, ha detto che appunto arrivo basso il segnale, ma la radio è sempre 5. Era importante perché insomma arrivare a tiri con 3 watt non è che anche se sono in alto, però sempre 3 watt so. K di Rosmatro, mamma mia come sto. Beh, fattacela col televisore. Ah, c'è il culo, l'ho abbandonato, non mi interessa. Siccome ho smontato tutto qua, sotto la scrivania, i cavi della TV erano dietro, quello che ha fatto Massimiliano, sicuramente ho tirato il cavo e c'è solo il centrale che sta toccando al connettore, capito, del cavo. Domani lo controllo, lo faccio il connettore nuovo, vedi che già si riprende. Sicuramente è quello lì, perché ho tirato il cavo, l'ho passato nuovamente sotto la decoratura e avrò fatto così, ma non me ne ha fatti nulla adesso. Adesso già lo controllo domani. Domani Giovanni sta fatta la televisione. Sta entrando un bel freschetto qua, che fuori sta morendo di caldo, minchia, domani che corte era. Porca miseria. Non c'è riscaldamento aperto, non si può riempire anche la gas. Ma non c'è regolato bene, c'è fuori ma non c'è troppo caldo. Poi questo è a gas, non è a gasolio. Abbiamo cambiato un paio di anni fa, siamo con la Medea, ma da quando no, siamo passati a gas e non si possono toccare i termosifoni. Infatti sto molto con la finestra, la bugibile abbassata ma la finestra aperta. Sono tra le radio accese, le vento degli alimentatori e tric e ballacche, non si può respirare qua dentro. Ehi vabbè, c'è chi crepa di freddo e c'è chi c'è troppo caldo, no, da noi li abbiamo fatti regolare perché era troppo alto e sudavo, dopo sarà tutto lungo a casa, alla fine l'abbiamo detto di regolarsi, di regolarsi i gradi giusti. Mi pare che siano a 15 o 20 gradi che devo dire la regolata. C'è caldo, però non c'è caldo da morire, dai. Ma tu c'hai termoconvettori o c'hai termosifoni in ghisa? Quelli in ghisa. Come fai a regolarli? Dalla caldaia li ha regolati? C'è l'ingresso dell'acqua calda? Allora, noi abbiamo il regolatore in casa e in più c'è giù il regolatore. Adesso hanno eliminato quelli che ci abbiamo in casa e li regolano da giù e basta. Ma io... è una mandata diretta il nostro. Si accende la caldaia, come sta a pompa, non lo puoi toccare il termosifone. Non c'è da che ho acceso qua, dalle 3 fino alle 10 e mezza. È un caldo da giù di tu a morire. Infatti sto sempre con la finestra aperta. Nel salone guardando la televisione ce ne sono 3 di termosifone, qua ce n'è uno grande, di là ce n'è 3 nel salone. Non ci puoi stare, sto male che corte guardando la TV. No, io nel salone ne ho la 5 elementi, ma ne ho uno solo. No, aspetta, sta chiamando Lima, dimmi Lima 1. No, sempre nella stessa posizione l'antenna, capito? Sempre lì, a 40 metri di altezza, l'autostrada, sempre lì. Ma prima arrivava Giovanni, mi ricordo io quando modulava Nino anche arrivava, adesso non lo sento più, sento solo a te, sembra che stai parlando da solo. Figurati, figlio a Giovanni da Trenzassi, perché io prima lo sentivo sempre bene, sempre. Ieri da me arrivavate tutti bene, tu vabbè in particolare, tu Nino, Giovanni, l'altro che c'è giù a San Nicola, arrivavano tutti bene, molto bene. Adesso sento solo a te e boh, gli altri non li sento più, non so perché. Vabbè, alla Bila Giovanni a Trenzassi. Avanti già, cosa stavi dicendo? Non me lo ricordo più, come stavo a parlare. No, hai detto ne è uno solo, no, io ne ho tre. Ne ho due grandi e uno piccolo, insomma. Forse sono i miei più grandi, non so. Poi ce n'è uno grande qua, uno grande in camera da letto di Laria, uno grande in camera da letto mia e uno medio in bagno. Ma ti sto dicendo che c'è un caldo da morire. Quando eravamo a Gasolio non c'era tutto questo caldo. Poi abbiamo deciso di collegarci alla Medea, infatti io adesso non questo inverno perché ormai non serve più a niente, quest'estate faccio fare dalla Medea l'impianto tutto a gas, capito? Lì me lo scaldabagno elettrico, tutto, mi collego alla rete del gas, siamo già pronti, siamo già. L'impianto è già fatto, arriva al poggiolo, lo mette la caldaia che me la dà la Medea stesso e poi uso il gas di rete, capito? Faccio tutto l'impianto a gas, fuori le balle, scaldabagno elettrico, tutto roba elettrica, bombole, non ne compaio più bombole, tutto a gas diretto dalla Medea. Io Claudio non mi sono mai fidato perché avevo visto le scoppie di Via Cesare Battisti, mi è bastato quello da vedere, non mi sono mai fidato a mettere quello. Poi ho sentito dire che non rende come dovrebbe la fiamma della cucina, è molta, quindi non ha potenza, capito? Rimane tutta flaccida. Avanti. Vabbè, qua nelle casette in Canada, lì sono a Via Anglona, c'erano tutti i gas di città. No, già c'è, i miei vicini di casa, molte volte ci vado, perfetto, tutto a posto. E poi con le tecnologie ci sono, cazzo, ci va vedendo di Via Cesare Battisti, ma quello è il portatore, sì. No. Cesare Battisti dove, per intenderci, dove Cesare adesso, dove c'era Lupin prima? Sì, già me lo ricordo, ci va vedendo di anni fa, non così la tecnologia, si vede caldaia della Madea, adesso 2700 euro costa la caldaia, te la vanno a scontare, capito? Te lo mettono nella bolletta, non la paghi subito. Fai il contratto e ti danno la caldaia, ti danno tutto, ti fanno fare l'impianto, tutto, sconti tutto in fattura. Cazzo, sono le caldaie digitali fenomenali col blocco automatico, ma stai scherzando, cioè, sono le valvole di sicurezza, un impianto fatto bene, ce l'hanno tutti qua, fare 5-6, sono il primo, io sono il secondo, ce l'hanno i due del primo, poi quello del secondo a fianco a me, Giacinto che è al terzo, Marisa che è al quarto, il quinto no, il sesto sì, il settimo sì e l'ottavo sì, e il nono sì, figurati, tutti virani. E le bollette come sono? No. Beh, se metti a scalare la caldaia ti mettono un minimo, ma comunque non sono salate. Non sono salate, sono bimestrali, ogni due mesi, capito? Se consigli tu ogni due mesi io spendo 30 euro per la bombola, ogni due mesi 180 euro di nutri, vedi tu. Ecco, assumi tutto, sì. Ma la bombola non la pago 30 euro, la pago 23. E vabbè, dico 30 per modo di dire, io la pago 23 lo stesso, sì. Però 180 euro di luce, 200, 220.